6. Ascolta e controlla. 1. Ieri noi abbiamo visitato un museo molto interessante. 2. La settimana scorsa loro hanno invitato gli amici al ristorante. 3. Gli amici hanno accettato con piacere l'invito. 4. L'altro ieri Livia ha giocato a tennis. 5. Il mese scorso voi avete lavorato sodo, cioè molto. 6. Per il mio compleanno ho ricevuto molti regali. 7. L'anno scorso noi abbiamo avuto molti problemi da risolvere. 8. All'esame finale io ho ottenuto il massimo dei voti. 9. Finalmente ieri noi abbiamo conosciuto il nuovo direttore. 10. Quando avete saputo questa bella notizia?